Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Un saluto da Francesco Galante, eccoci al consueto appuntamento con l'Adico di Mestre e saluto al presidente Carlo Garofolini. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, ricordiamo che l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre si occupa di tantissime cose e c'è un argomento che abbiamo già toccato un paio di volte, oggi lo ritocchiamo perché insomma vi siete messi in testa di andare avanti a testa bassa, come si dice in certi casi. Parliamo del famoso discorso delle emissioni col trucco, quindi caso Volkswagen. Sì, riprendiamo il caso Volkswagen, Francesco, come hai detto te, e annunciamo come l'Adico, proprio notizia di poche ore fa, ha deciso di passare dalle parole ai fatti. E abbiamo dato mandato praticamente ai nostri uffici legali di entrare nel merito della vicenda e nell'occasione procedere con quelle che possono essere le doverose, e io vorrei permettermi di dire quanto dovute, richieste di risarcimento a fronte di un evento che insomma non serve tanto ricordare quanto per i fatti di cronaca insomma anche l'hanno tenuto abbastanza sotto riflettore. Anche perché poi si è iniziato a pensare che tutte le macchine avessero lo stesso problema, tutte le varie marche, no? Poi si è visto che non è stato proprio così. Volevo chiederti, c'è stato già qualche provvedimento della Volkswagen in alcuni paesi in riferimento a questo? Allora, innanzitutto alcuni paesi, intendiamo l'America, sembra che l'America insomma sia intenzionata a comminare una grossa multa e addirittura si può pensare di arrivare a valutare nei casi più estremi alla sostituzione dell'auto. Chiaramente noi purtroppo non siamo in America, sappiamo che anche in termini di leggi e tutele consumeristiche su alcuni versanti ci sono ancora delle grosse lacune, però è vero che insomma l'Adico dispone di altri mezzi che possono certamente aiutare il consumatore a fare giustizia. Nel caso specifico della Volkswagen, appunto, ricordiamo come le persone che sono in possesso di quelle vetture che rientrano nella famosa manomissione dei dati e delle centraline, abbiamo dato mandato all'ufficio proprio di procedere con le richieste di risarcimento, perché riteniamo che insomma si debba un attimino entrare nel merito della questione a fronte di quelle che sono state le numerosissime richieste che abbiamo avuto in questi giorni, ma anche a fronte di quelle che sono delle risposte che ancora non abbiamo avuto, malgrado una lettera di intenti che la Volkswagen ha fatto avere mesi fa, che si impegnava a contattare i clienti e ancora non l'ha fatto. E aggiungiamo che alla richiesta di risarcimento chiaramente ha un duplice aspetto: da un lato mette in mora la Volkswagen per fare in modo che i termini di risarcimento non vengano prescritti, dall'altro per procedere alla quantificazione di quello che può essere un risarcimento che riteneremo equo a seconda dei casi, che chiaramente dipenderanno dal modello, dalla vettura e anno di immatricolazione. Quindi ognuno potrà, si pensa, arrivare ad avere un risarcimento diverso, ovviamente non tutti la stessa cifra. Sì, è chiaro che noi non andremo in questa fase a fare ancora la causa, però abbiamo predisposto l'istanza e la diffida legale da iniziare in mezzo raccomandata alla casa madre, perché con questa istanza andremo a interrompere quelli che sono i termini entro i quali poi si rischia di incorrere nella prescrizione e quindi non poter fare nulla e poter procedere a un'azione giudiziaria nel caso che non si trovi un adeguato soddisfacimento alle nostre legittime richieste e pretese. Quindi il modulo in questo caso è predisposto, l'ufficio è a disposizione dei soci e quindi con questo da oggi possiamo dire, da qualche ora siamo entrando nel vivo di una vicenda che insomma per molto tempo abbiamo seguito ma di cui ancora non ci sono state delle risposte concrete. Ecco, voi in questo periodo avete raccolto le varie problematiche di chi aveva un'auto Volkswagen, continuate a ricevere ancora domande? Sì, noi in questa fase abbiamo accolto tutte le persone che entravano nelle casistiche. Con l'annuncio di questa iniziativa siamo convinti di accogliere ancora molti altri. Certamente da domani cominceremo a stilare l'elenco e a iniziare la nostra attività. Non siamo in grado ancora di dare il numero di casi, ma certamente anticipare già che i casi fino ad oggi che abbiamo cominciato a gestire sono diverse decine, pertanto ci aspettiamo nelle prossime ore una rivalutazione delle cifre. Certo, allora ricordo www.associazionedifesaconsumatori.it, il sito che dovete andare a vedere, ci sono i contatti con i numeri di telefono per chiedere ulteriori informazioni se siete titolari di una Volkswagen e in qualche modo volete anche voi portare avanti questo pensiero, questo risarcimento, dato che insomma a tutti gli effetti magari avete una macchina che non risponde a quelli che erano i parametri quando l'avete comprata. Grazie quindi all'Associazione Difesa Consumatori, all'Adico, al presidente Carlo Garofolini, che ritroveremo anche lunedì prossimo. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.